Bene, in questa presentazione del libro di Daniele Odier, Desideri, Passioni, Spiritualità, però parlo a ruota libera, toccando alcuni temi che lui tratta in modo molto incisivo. E oggi voglio parlare del desiderio. Ecco. Il desiderio, come sappiamo, in molte tradizioni spirituali e sapienziali, anche in certe tradizioni filosofiche, è visto come un po' l'ostacolo per poter vivere nel mondo in modo sereno, tranquillo e pacifico. Pensiamo solo agli stoici, l'atarassia era il loro obiettivo, cioè non essere imperturbabili. Perché questo? Perché il desiderio è un movimento verso qualcosa, verso un oggetto. E se riusciamo ad avere questo oggetto c'è la soddisfazione, ma se non riusciamo ad averlo c'è la frustrazione. E poi un'altra delle caratteristiche del desiderio è che anche quando abbiamo raggiunto l'oggetto del desiderio, dopo un po' questa cosa che ci dava tanta soddisfazione inizialmente non ce n'è più, quindi si perde la soddisfazione. Quindi da una parte il desiderio negli esseri umani è associato al piacere e anche alla sofferenza. Ancor più dei desideri la passione. La passione che la sua radice viene da patio latino, vuol dire patire. La passione è un desiderio molto molto intenso. To crave in inglese, desiderare ardentemente. Allora la passione, se è alimentata dall'oggetto, cioè allora diventa un momento di grandissimo piacere, gioia, ma se l'oggetto frustra la passione è altrettanto dolore. Allora, nel libro di Odier, viene presentata la visione tantrica rispetto a questo tema, che è un po' diversa da quella a cui siamo abituati, no? Del controllo dei desideri, di pensare che ci sono dei desideri superiori, desideri inferiori, che quindi i desideri comunque sono pericolosi. Vabbè. Quindi nel nostro mondo culturale abbiamo due visioni estreme, quella ascetica, bisogna bloccare i desideri, e quella edonistica, no, i desideri vanno soddisfatti l'uno dietro l'altro. Entrambe queste due visioni, proprio perché estreme, conducono regolarmente alla sofferenza. Allora ci può essere un modo in cui ci rapportiamo col desiderio che non produce sofferenza? Ecco, Daniele Odier risponde, sì, c'è, una visione tantrica è proprio questa. I tantrici si sono resi conto che non è il desiderio che produce dolore, ma è l'attaccamento all'oggetto del desiderio, quello sì. Allora, il desiderio cos'è? Il desiderio è un movimento verso l'esterno. Il desiderio è parte della vita. Senza desiderio non c'è vita, senza movimento non c'è vita. Quindi non è in sé il desiderio, questa spinta, questa pulsione che può produrre dolore, ma il modo in cui la trattiamo, cioè il modo in cui ci rapportiamo col suo oggetto. Allora, Odier ci chiarisce molto bene che ecco, la visione tantrica che dice, ma noi dovremmo imparare a essere in costante stato di desiderio, in costante stato di incandescenza, in costante stato di innamoramento. Cosa che, se vi ricordate, vi ho detto infinite volte. Noi dovremmo vivere in stato di innamoramento. Che l'innamoramento è uno stato nascente, non è uno stato che chiude, anzi è sempre fluido. Ed è lo stato che ci consente di essere in presenza con la realtà. Naturalmente, perché questo sia vero, occorre disporre non di una visione a tunnel, cioè focalizzata su un oggetto, ma di una visione a 360 gradi. Quindi il passaggio è utilizzare il desiderio come molla, ma non monopolizzato, non focalizzato, non dipendente dalla soddisfazione di un singolo oggetto. Perché, come dice Lamartine, quando perdiamo il contatto con un solo essere, adesso vado a cercarlo. Così ti do la citazione corretta, dice Lamartine, vi manca un solo essere e tutto diventa deserto. È quello che prova l'innamorato quando l'oggetto del suo amore, quando la persona amata la rifiuta. Il mondo si svuota, non c'è più niente. Ecco. Allora, quella effettivamente è un pericolo che la passione, il desiderio si porta dietro. Come si fa a evitare questo pericolo? Essendo innamorati di tutto, cioè essendo innamorati di tutto quello che c'è. Quindi stando nello stato del desiderio che fa sì che ogni cosa che contattiamo ci diventi fonte di gioia e di piacere. Beh, questo per noi occidentali è qualcosa di praticamente incomprensibile. E quindi occorre una riflessione, più profonda. Noi occidentali siamo abituati a pensare per obiettivi e per scopi. Io mi pongo un obiettivo, lo raggiungo, sono contento, non lo raggiungo, sono insoddisfatto. Beh, ma dal pensiero orientale e anche dal nostro pensiero, da sola parte del nostro pensiero, della mistica, comprendiamo che il ragionare per obiettivi, per aspettative, è uno dei modi possibili. Ed è un modo che ci distacca dal flusso continuo della realtà. Quindi è importante comprendere cosa intendono i tantrici, ma anche i buddisti, per contatto con la realtà. Contatto con la realtà, cioè contatto con la realtà nuda, significa contemplazione. Io sono in presenza di qualcosa davanti a me e non metto filtri di aspettative, di obiettivi da raggiungere, di scopi che possono poi essere delusi. No, sono semplicemente in contatto con quello che c'è. Io divento un cristallo limpido entro cui questo oggetto della realtà in questo momento esterno, un fiore, ma anche una foglia, ma anche una bottiglia, come ha fatto il pittore Morandi. Io entro in contatto direttamente con l'essenza, con la magia di questo oggetto. E come del resto dicono i fenomenologi, e poiché metto tutto tra parentesi, tra me e questo oggetto della realtà, non metto i filtri del giudizio, delle aspettative e così via. E se faccio questo, e se sono in contemplazione, mi accorgerò che io di questo oggetto mi innamoro. Cioè, succede qualcosa per cui non lo vedo più come prima. C'è un movimento artistico che si chiama formalismo, formalismo russo per esempio, i cui rappresentanti ritenevano che noi non siamo più in contatto con la realtà. E quindi lo scopo dell'arte, dal punto di vista del formalismo russo, era quello di restituirci questo contatto. In che modo? Prendendo un oggetto e isolandolo dal suo normale contesto. Perché quando un oggetto, una sedia, un tavolino, è messo nel suo normale contesto, in realtà non vediamo la sedia o il tavolino. Vediamo semplicemente dentro di noi lo schema di questo oggetto. E quindi non produce niente dentro di noi. Ma questo non vale solo per una sedia, un tavolo o una bottiglia, vale anche per una persona. Dopo un po' l'abbiamo etichettata. Quindi non ci rapportiamo più con la vita di questa persona, che è un flusso, un fiume che cambia in continuazione, ma ci rapportiamo con un'immagine statica, ferma. Ecco perché due persone si innamorano, dopo un po' l'innamoramento si trasforma in noia. In noia perché la persona accanto è non è più viva, è morta. E stare con un morto non è piacevole. Ecco. Allora i tantrici dicono proprio questo: com'è che possiamo stare nella vita? E il primo passaggio è stare in contatto continuo con la realtà, istante per istante, allenandoci. Siccome siamo allenati a fare l'opposto, dobbiamo allenare a fare così.